Ebbene sì, cari ascoltatori, colui che vi parla, come avrete senz'altro capito da quel non so che di celestiale che risuona nella sua voce, è un angelo. Un angelo ovviamente senza ali e senza aureola, privo dunque dell'eleganza di quei suoi colleghi gotici e rinascimentali usi a fungere da test di gravidanza di fronte a stupefatte madonne, e della solennità di quelli che cantano in tedesco le glorie del Signore nel prologo del Faust di Goethe, e della funzione cosmica dei 9 cori di angelici forzati che lo pseudo Dionigi l'Areopagita condanna a spingere per l'eternità le ruote dei cieli, ma sempre un angelo. Un angelo caduto dal cielo per il troppo peso, come avrebbe detto la mia vecchia nonna, o un angelo con la faccia sporca, come The Death Kid di Mikhail Curtis. Ma tanto peso e lindore non contano se l'animo è puro. Un angelo del fango, diciamo. Perché, vi confesso commosso in questo giorno di solenni commemorazioni, tra i bravi giovani che 30 anni fa correvano a Firenze, nella Firenze alluvionata per dare una mano, c'ero anch'io. Mi capita di rado di pensarci, se non forse quando sono tormentato dalla lombaggine, ma gli anniversari sono anniversari e bisogna far fronte alle proprie responsabilità. Sono stato anch'io un angelo del fango. Tranquilli, tranquilli, non voglio affliggervi con le mie reminiscenze, lo hanno già fatto in troppi. D'altronde, non ricordo che nella città sconvolta e umiliata mi siano capitate le ricche esperienze umane di cui hanno riferito in questi giorni alla stampa tanti miei coetanei, e forse perché ero iscritto alla facoltà di lettere, mi avevano cacciato nei sotterranei della Biblioteca Nazionale a tirar su delle annate rilegate di quotidiani di fine Ottocento, che sicuramente è un'opera meritoria dal punto di vista culturale, ma pochissimo emozionante. E non ricordo nemmeno tanto bene, a 30 anni di distanza, quali fossero le motivazioni che mi hanno spinto lato agli altri. Ma una cosa ve la voglio proprio dire. Se avessi saputo che ci avrebbero chiamati angeli del fango, e come tali celebrati in un convegno internazionale alla presenza dell'onorevole Veltroni, io andato proprio non ci sarei. Gli angeli sono più complicati di quanto si pensi normalmente, come sa chi ha letto Anatole France, ma risolvere il problema della motivazione di chi era intervenuto a Firenze in quei giorni con la categoria dell'angelico è forse un po' troppo facile, significa cavarsela un po' con poco, e c'erano parecchie altre cose con cui fare i conti. C'era magari una certa dose di polemica verso chi gestiva le cose in modo da lasciare la città impotente di fronte a una semplice ondata di piena. E un sentimento che si sarebbe certamente acuito, l'idea che 30 anni dopo il rischio di inondazione sarebbe stato esattamente lo stesso e che tutto quanto le autorità avrebbero saputo fare sarebbe stato invitare onorevole Veltroni a presiedere un convegno commemorativo. E questo è tutto un altro discorso. In fondo, gli angeli sono angeli, ma non c'è niente da vantarsi nell'aver dovuto ricorrere al volontariato giovanile per risolvere un'emergenza che non avrebbe dovuto essere tale. Il vecchio Brecht ci ha spiegato che sono felici i paesi che non hanno bisogno di eroi, e altrettanto felici, a pensarci bene, sono i paesi che non hanno bisogno di volontari. No, però. Rettifico, forse un ricordo di quei giorni ve lo voglio sottoporre. A un certo punto, nei vagoni ferroviari dove eravamo acquartierati, ricevemmo la visita del presidente del consiglio in carica. Era un signore distinto, con un soprabito cammello chiaro assolutamente inadatto al clima e alle condizioni del luogo, con un'elegante ciocca bianca tra i capelli scuri. Noi non avevamo nulla contro di lui personalmente e certamente nessuno gli avrebbe augurato il destino tragico che avrebbe incontrato 12 anni dopo, ma in nome della funzione che rivestiva lo ricoprimmo di contumelie che più non si poteva. Come si diceva allora, lo contestammo. E sarà strano, ma nelle commemorazioni di questi giorni io di quell'episodio non trovo traccia. Oggi c'è un angelo in meno su questa terra. Oggi c'è un angelo in meno che non ha terra. Nevicherà dentro il mio cuore tutto l'inverno nevicherà sopra quel pane, su questo inferno.